Europa 24. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchesi, questa è Europa 24. A Minsk, nei negoziati sulla riconciliazione in Ucraina, sono stati raggiunti oggi accordi sui punti principali, anche se la situazione resta comunque molto tesa. In particolare c'è l'intesa sul cessate il fuoco, fermare il bagno di sangue fino al raggiungimento di una tregua piena, ha detto oggi Vladimir Putin, ma per gli aggiornamenti in diretta con Laura Bettini. Buongiorno, si manca meno di un'ora ormai all'inizio del Consiglio dei Capi di Stato e di Governo della UE, ritardato per via proprio della lunga maratona negoziale a Minsk sulla crisi ucraina, dove l'Europa è stata rappresentata da Germania e Francia. La cancelliera Merkel e il presidente Hollande riferiranno i contenuti dell'intesa raggiunta a Minsk affinché la supportino i leader europei. Entrambi hanno detto che c'è ancora molto da fare, ma che comunque questo che si è ottenuto è un barlume di speranza. Tra i punti principali dell'intesa: il cessate il fuoco completo dal 15 di febbraio, il ritiro delle armi pesanti dalla linea del fronte, secondo gli accordi precedenti, quelli del 19 settembre, la creazione di una zona di sicurezza, la liberazione di tutti i prigionieri. Ma resta profondo disaccordo tra l'Ucraina e la Russia, diciamo, per semplificare, sul futuro status delle regioni separatiste del Donbass e sulla attuale situazione di Debaltseve, che è una città che si trova in una sacca sotto controllo ucraino, ma caduta la città in mano ribelle. L'alto rappresentante per la politica estera europea, Federica Mogherini, ha detto, in virtù di questa intesa, di non credere comunque che il Consiglio oggi avrà tra i suoi temi nuove sanzioni alla Russia. È tutto. Bene, grazie a Laura Bettini. Grecia, Eurogruppo, intanto si stanno scontrando, i ministri non riescono nemmeno a scrivere un comunicato congiunto, rinviano la riunione oggi molto animata al nuovo Eurogruppo di lunedì, nella speranza che il vertice dei capi di Stato e di Governo di oggi possa trovare un modo per instaurare un dialogo con Tsipras. Siamo in diretta con Beda Romano. Qual è la situazione? Sì, infatti il vertice sta per cominciare con un paio di ore di ritardo a causa degli avvenimenti in Ucraina. L'incontro tra i ministri delle finanze ieri sera è terminato con un nulla di fatto, è terminato con un nulla di fatto semplicemente perché Grecia e i suoi creditori, i suoi partner nella zona euro hanno visioni completamente diverse. La Grecia non vuole un programma di aggiustamento, vuole assolutamente scrollarsi di dosso il programma che le è stato imposto negli ultimi anni, ma al tempo stesso vuole denaro fresco perché ne ha assolutamente bisogno. Dall'altra parte i suoi creditori sono pronti a dare denaro fresco alla Grecia, ma hanno bisogno anche per i loro elettori di una qualche forma di programma, di quadro giuridico. Quindi in questo momento non c'è accordo su questo, si tratta a livello diplomatico, ma naturalmente anche a livello politico, qui a Bruxelles. Ecco Beda, Matteo Renzi al suo arrivo al vertice di Bruxelles ha ribadito che la battaglia vera è cambiare la politica economica europea. Ha detto in particolare il punto centrale non è cambiare la politica economica in Grecia, ma fare una battaglia perché cambi la politica economica nell'Unione Europea. E quindi vorrebbe ribadire un nuovo l'asse con Tsipras oppure una battaglia sua? Ma ho l'impressione che sia una battaglia sua, ho l'impressione che il Presidente del Consiglio abbia stato per alcuni giorni con l'idea di appoggiare, di sostenere Tsipras nelle sue richieste precedenti al momento del suo arrivo al potere. Tsipras aveva parlato di revisione del debito, aveva parlato di abolizione della troica, aveva parlato di cancellazione del programma. Credo che il Presidente del Consiglio abbia pensato a un certo punto di appoggiare queste richieste e poi si è forse reso conto che l'impatto sarebbe stato a lui negativo in Italia. Una eventuale vittoria di Tsipras, che in questo momento non appare probabile, una eventuale vittoria di Tsipras avrebbe rafforzato l'ala sinistra dell'elettorato italiano e quindi messo in difficoltà il Partito Democratico e lo stesso Presidente del Consiglio. Quindi ecco perché questo momento di qualche giorno in cui Matteo Renzi ha dato l'impressione di flirtare con Tsipras è stato cambiato nel giro di poco al momento della visita del nuovo primo ministro greco a Roma la settimana scorsa. Bene, grazie Beda Romano, è tutto per Europa 24 di oggi. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.